I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è l'ultima trasmissione dei nomi delle cose prima dell'estate, ma per lottare ogni stagione è buona. Quindi apriamo la trasmissione con delle parole di Silvia Federici. Il capitalismo, in quanto sistema economico e sociale, è necessariamente compromesso con il razzismo e il sessismo. Il capitalismo infatti deve giustificare e mistificare le contraddizioni inerenti ai suoi rapporti sociali, la promessa di libertà contro una realtà di coercizione diffusa, la promessa di prosperità contro una realtà di penuria diffusa, denigrando la natura, tra virgolette, di coloro che sfrutta: donne, sudditi coloniali, i discendenti degli schiavi africani, gli immigrati delocalizzati della globalizzazione. If you worked your hands in wood, would you still love me? Answer me, babe, yes I would. I'd put you above me. And if you were a miller, had a mill wheel grinding, would you see it written on my face? I'm here for the finding. See my my love for sorrow, I've given you my loneliness. Come give me your tomorrow. If you were a carpenter and I were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? Would you have my baby? Allora, ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo, e siamo di nuovo in diretta e abbiamo e dedichiamo questa ultima trasmissione dell'anno politico, chiamiamolo così, 2015-2016, anche appunto se, come abbiamo detto, l'anno politico non finisce mai, a una domanda: che cos'è la democrazia? Allora, perché ci è venuta questa domanda? Perché ci sono stati gli ultimi avvenimenti della Brexit in Inghilterra, sono state dette e fatte tante cose, e dette tante cose sul concetto di democrazia che ci hanno detto, ci hanno fatto pensare, un attimino fermiamoci e parliamone, perché qui forse il concetto di democrazia, e soprattutto il concetto di democrazia borghese, fa un po' non dico discuto in maniera sbagliata, comunque ci dimentichiamo sempre da dove viene, ecco. E a questo proposito abbiamo messo nel nostro palinsesto una barzelletta di Mafalda, la famosa bambina dei fumetti, notissima, che ci è piaciuta molto, ci ha fatto molto ridere. C'è lei che legge sul dizionario: democrazia, dal greco demos, popolo, e kratos, autorità, governo in cui il popolo esercita la sovranità. Dopodiché si mette a ridere come una pazza e continua a ridere a cena, e continua a ridere davanti ai genitori, e continua a ridere mentre va a dormire davanti ai genitori allibiti. Però questa è una risposta esaustiva. If you were a carpenter and I were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were your trade, would you still find me carrying the pots you made, following behind me? See my love through loneliness. E quindi, insomma, appunto, chiedendoci cos'è la democrazia, già c'eravamo risposte in passato su altri argomenti, insomma, no? E quindi, che cos'è la democrazia? È un gioco, il gioco democratico è un gioco borghese, come se fosse un gioco di carte. E quasi, forse è quasi un gioco di carte. E questo gioco democratico attualmente si basa sul suffragio universale. Il suffragio universale è correlato alle idee di volontà generale e di rappresentanza politica, che vengono appunto da sono state promosse in primis da Rousseau. In base a questi principi, quindi si elabora l'assunto per il quale la rappresentanza politica trova la legittimazione nella propria volontarietà. Quindi, appunto, insomma, i cittadini eleggono in base, appunto, a seconda del proprio sistema politico, i vari organi legislativi, lo Stato, il capo dello Stato, eccetera, eccetera. Nella maggior parte dei casi il suffragio è nato come universale maschile. Certo. Quindi, anche se poi, no, il suffragio universale è sempre stato detto suffragio universale, ma per esempio era universale sui generi, se no, perché magari votavano solo quelli di una classe sociale, votavano solo quelli. Che poi ci fa venire in mente anche una cosa sul suffragio universale, sul il sistema americano, per esempio, no? Che per votare devi essere attivo e pagare, nel senso che c'è un meccanismo per cui tu, per partecipare, e come hanno fatto le primarie, quasi pagano 2 euro. No? Cioè devi essere attivo e devi pagare. Quindi il suffragio universale è stato inteso in vari modi e in varie maniere, ma così universale non è. Comunque adesso diciamo che è un suffragio universale, perché poi votiamo anche noi. Sì, sì. Noi qua in Italia ovviamente votiamo dal 46, ci hanno concesso questo favore. Questo è giusto, privilegio, dicono. Questo privilegio. E quindi, appunto, noi votiamo i nostri rappresentanti, perché questa è una democrazia rappresentativa. Rappresentativa, quindi rappresenta anche il fatto che se io voglio votare Barabba, voto Barabba. Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. La democrazia parlamentare dice questo. Che persino i romani, infatti, hanno fatto quando hanno chiesto di scegliere, hanno rispettato la volontà del popolo in quel caso, no? Perché diciamo che dovrebbe essere eletto chiunque voglia la volontà popolare, quindi anche il re dei ladri. Tanto è vero che questi ci sono tutta una serie di discorsi che sono stati portati avanti, tipo l'abolizione, no, dell'immunità parlamentare, che è un grosso vulnus all'interno della democrazia, così come, certo, perché in realtà, tra virgolette, almeno per quanto riguarda la possibilità di eleggere chi vogliamo, certo, teoricamente le leggi sono abbastanza lascive adesso su questo, quindi ti dicono l'età, ti dicono semplicemente che non dovresti avere pendenti penali, dopodiché però sono vaghe. Diciamo invece che, questo che mette dei limiti. Non dovrebbe essere neanche così, perché non ci dovrebbero essere dei limiti, appunto, anche se uno è il re dei ladri, non dovrebbe succedere quello che succede adesso e che è passato, che uno sia condanne o se ha addirittura processi, procedimenti in corso, viene bloccato e compagnia bella, perché noi sappiamo che non ci sono condanne politiche, di fatto tutte le condanne sono reati penali, perché basta, cioè ti attacchi la luce, furto allo Stato, fai un blocco stradale, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento, quindi è una condanna penale, quindi tutto questo penalizza le minoranze e chi si certo, oppone. Perché comunque appunto quello che dovrebbe essere il concetto di democrazia difeso dai grandi intellettuali di ogni risma, in realtà poi si traduce appunto in semplicemente l'imposizione in realtà di quello che è l'egemonia culturale socialdemocratica, né più e né meno, perché appunto passa per appunto le la repressione dal punto di vista penale su appunto la possibilità, no, di riprendersi ciò che dovrebbe essere tra virgolette di quella categoria che amano chiamare cittadini, o appunto anche in casi peggiori in cui appunto non è piaciuto all'egemonia chi era stato eletto o le cose che erano state decise attraverso il referendum e quindi sono state completamente bypassate e strumentalizzate, no, da chi appunto si è servito di vari strumenti che conosciamo bene per ribaltare poi quel risultato tra virgolette popolare. Eh sì, perché questo infatti ci è venuto in mente con la famosa storia del Brexit adesso, no? Perché come diceva giustamente Noemi prima, il gioco democratico è sempre un gioco di carte, soltanto tanto che chi ha le redini del potere, vale a dire la borghesia, bleffa, non gioca in maniera regolare, bleffa, nel senso che noi abbiamo... In tutti i casinò che si rispettino, il banco... bleffa, nel senso che noi abbiamo le carte scoperte, invece loro giocano barando, no? E perché questo? Perché ogni volta che la risposta del voto, chiamiamolo così, non è quella che il sistema si aspetta, cioè non è quella che vogliono, non è quella che hanno programmato, non è quella che è stata decisa altrove, quindi non risponde, e praticamente abbiamo scherzato la risposta, abbiamo scherzato, sì, o abbiamo scherzato, oppure forse, come è uscito insomma in parecchi articoli, forse non hanno capito bene su che cosa si votava. Sì, appunto. Allora, di esempi ce ne sono tantissimi, nel senso che dal Cile di Allende, no? Che addirittura sappiamo quello che è successo al referendum in Ucraina, e poi senza parlare di tutti i colpi di Stato rispetto ai sistemi di governo non graditi nei paesi del terzo mondo, le rivoluzioni colorate, le guerre umanitarie per buttare giù un governo e metterne uno, no? Però parliamo di noi, e parliamo di quello che succede qua, tipo: abbiamo fatto un referendum sull'acqua pubblica? L'acqua è privata, è privatizzata, no, praticamente. No, abbiamo scherzato, non vale. Abbiamo fatto un referendum sul finanziamento pubblico ai partiti? Non importa, adesso si chiama in un altro modo, passa attraverso altre strade. La Grecia ha fatto un referendum e ha detto no con una percentuale altissima alle misure che voleva imporgli l'Unione Europea. E poi il governo si è accordato con l'Unione Europea. Niente, abbiamo scherzato, non importa, o non vale da una parte o non importa dall'altra, o fanno un colpo di Stato, oppure se non possono fare il colpo di Stato come qui da noi, non è un'altra configurazione, quindi non possono fare il colpo di stato classico, fanno un colpo di stato bianco, perché quando è andato su Monti è stato di fatto un colpo di stato bianco, non è stato con le, fatto con le con i meccanismi del terzo mondo, è stato fatto con i meccanismi occidentali. Quindi ogni volta che qualcuno o qualcosa si muove e decide in maniera non consona a quello che vuole il sistema di potere, il gioco democratico non vale. A parte il fatto che penso che una delle ragioni, cioè non penso, la ragione principale per cui la Val di Susa è una spina nel fianco così forte è perché la Val di Susa vuole autodeterminarsi, quindi non gliene importa assolutamente niente di quello che è stato deciso altrove, vuole decidere della propria terra e del proprio destino. Eu quero é samba. Este samba que é visto de maracatu. É samba de peito veio, é samba de preto tu. Mas quem nada, samba com mais tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Pois eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, é samba de preto. Mas que nada, o samba com a gente tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Poi c'è un qualcosa che ci si dimentica sempre. Si parla di democrazia, si parla di democrazia come la forma di governo più bella del mondo, la più giusta. Tutti rivendicano il fatto che sono democratici, no? Qualsiasi tipo di governo, qualsiasi tipo di impostazione politica, eccetera, rivendica il fatto di essere democratica. Mentre la democrazia, questa qua, la democrazia parlamentare, che poi è la democrazia rappresentativa, chiamiamola così, che è la democrazia borghese, praticamente è il sistema di governo che si è dato alla borghesia. Cioè non è un qualcosa che sta praticamente questo esempio perfetto che tutti dovrebbero, tutte dovrebbero inseguire, non è nient'altro che la forma di governo che si è data questo sistema di potere, e la forma di governo che si è data questo sistema di potere è basata sì sul voto, però c'è tutta una serie, ci sono tutta una serie di meccanismi di condizionamento, ci sono tutta una serie di meccanismi di controllo, ci sono tutta una serie di meccanismi di giudizio che entrano in gioco, per cui poi ti portano a decidere quello che è stato decretato già altrove, quindi non dovremmo mai dimenticarci che cos'è la democrazia borghese, no? Perché sembra che sia chissà che cosa. Sì, ha un'origine che non ci dovrebbe appartenere. Abbiamo esempi molto più interessanti, pensiamo alla Comune, insomma, non hanno applicato il concetto democratico borghese, anzi. E quindi, per esempio, questo coinvolge anche per il concetto di Stato, no? Che per gradire adesso viene propagandata in tutte le salse la cosiddetta legalità, le leggi, la legalità, degrado, no? E quindi coinvolge tutti gli aspetti dell'esistente, quindi c'è il degrado, facciamo le leggi, c'è la violenza sulle donne, facciamo le leggi, c'è la cosa, facciamo le leggi si devono aspettare, le bollette si devono pagare, i biglietti si devono pagare, altrimenti qua, altrimenti sì, là, sì. No, sei fuori dalla legalità. Ma lo Stato non è altro che il momento organizzativo di chi sta al potere, quindi il momento organizzativo di chi sta al potere fa le sue leggi e te le propina, e tu che sei subalterno, che poi le leggi sono fatte per i subalterni, mica per chi le fa, Certo, e poi questo si ricollega a un concetto che in realtà ribadiamo molto spesso, cioè nel senso che non si può riformare dall'interno quello che è un sistema, che è appunto quello democratico borghese, o come può essere, appunto, ricollegandoci a quello che è l'attualità, no? La questione della Brexit e quindi dell'Unione Europea, cioè parliamo comunque di strutture che non hanno niente a che fare con quello che chiamiamo, cioè che noi rivendichiamo sempre, che è la lotta dal basso, e quindi in realtà, appunto, cioè nel senso, ricordarci sempre che non è riformabile questo sistema. Certo. Assolutamente, ma può essere semplicemente distrutto attraverso quello che è la lotta politica, anche perché se una cosa ce l'ha insegnato, insomma, tutta questa tutte queste discussioni rispetto a quello che è stato la Brexit sono state proprio, appunto, come dicevamo prima, intanto l'ennesima infantilizzazione del popolo, cioè il popolo non la ha gente. Saputo votare, no, la gente certo. Non sa le cose, ignorante, non ha capito, questo anche supportato ormai, lo sappiamo bene, da statistiche, da sondaggi, da mappe varie che hanno mostrato, no, come è stato, che tipologia di voto c'è stato. Ovviamente anche lì sappiamo bene che l'interpretazione politica cambia le carte in tavola, appunto, certo. Non ti fa vedere quali sono le carte reali che sono state messe. Per esempio, una nota così che è a margine, perché non è che noi vogliamo indagare il Brexit in particolare, noi volevamo fare una carrellata sul concetto di democrazia, no? Ma il Brexit in effetti ci dà degli spunti di riflessione sul fatto che, prima di tutto, l'uscita dall'Unione Europea è stata monopolizzata dalla destra, e quindi il fatto che sia stata monopolizzata dalla destra e che la sinistra quasi tutta abbia votato per rimanere, invece, ci dà da pensare tanto. Perché? Perché il giudizio sul neoliberismo, sull'attacco allo Stato sociale fortissimo, sull'impoverimento, eccetera, eccetera, avrebbe dovuto essere un cavallo di battaglia della sinistra, cioè avrebbe dovuto essere si sarebbe dovuto spostare il discorso non sui migranti, sul razzismo, eccetera, bensì sulle politiche di impoverimento della gente, e quindi non lasciare alla destra questo patrimonio. Però qui entra in gioco, primo, quella che noi continuiamo a chiamare sinistra, e che sinistra non è, perché i socialdemocratici non sono sinistra ma sono destra moderna, e gli interessi nei confronti del neoliberismo sono proprio loro e specifici. E secondo, proprio sul fatto, sulla difficoltà invece di mettere insieme un discorso di classe che riesca a organizzare tutti gli strati sociali colpiti dalla crisi, e che quindi organizzi un fronte contro il neoliberismo, un fronte addirittura praticamente lo chiamano populista, io lo chiamerei trasversale, cioè più che populista lo chiamerei trasversale. Direi che bisognerebbe trovare il nesso che accomuna tutti gli strati sociali, compresa la piccola e media borghesia, che sono colpite dall'impoverimento molto forte, e riportarle a unità, cioè trovare il modo di coinvolgerle. Anche perché appunto, cioè, nel senso, bisogna, è necessario ribadire che tutte le discussioni che appunto parlano di fascistizzazione della società, dei gruppi politici, questo spostamento a destra, vediamo anche, no, con le elezioni qua in Italia per le amministrative, tutti i vari le varie letture, no, del voto e gli spostamenti, gli innalzamenti di alcuni partiti, sono stati letti appunto come le persone sono passate a destra, perché effettivamente non siamo un po' un'autocritica, non siamo stati capaci comunque di creare, abbiamo lasciato lo spazio e questo spazio ovviamente in politica i voti non ci sono, è stato preso anche, sì. Perché appunto ribadiamo quello che i mass media passano per sinistra è la sinistra socialdemocratica. Se non creiamo comunque un fronte comune con le nostre parole d'ordine, che poi esistono, insomma, non dobbiamo insomma creare niente di particolarmente nuovo, in realtà rimettendo in piedi questo, fondamentalmente riusciamo a ricreare comunque una lotta dal basso, anche perché, questo lo ribadiamo, cioè nel senso, per quanto riguarda il voto siamo sempre state chiare sull'astensionismo, proprio perché appunto questo gioco democratico è un gioco borghese, un gioco dove assolutamente noi siamo pedine, certo. E non siamo assolutamente nella democrazia rappresentativa, soprattutto nelle città, no? Si parla sempre, no, di partecipazione attiva del cittadino, certo. Coinvolgimento eccetera, ma il coinvolgimento è stato quello dell'associazionismo, è stato quello in realtà che poi ci ha portato a questo punto per cui appunto parliamo di legalità e di degrado, e se abbiamo quello stanno tutti bene. A proposito di questo che ha detto Noemi, volevo anche chiarire una cosa. Noi appunto non abbiamo mai creduto e non crediamo nel cosiddetto gioco borghese, nel gioco democratico, nella cosiddetta democrazia, tant'è vero che avevamo fatto un manifesto che ogni tanto ritiriamo fuori perché vale sempre, che ci piace tanto, come femministe, che recita: non votare, auto-organizzati. Però allo stesso tempo bisogna dire delle cose, cioè che per esempio il neoliberismo sta portando un attacco molto forte a quelle che sono le istituzioni, le rappresentanze cosiddette democratiche, cioè sta portando un attacco molto forte al fare politico, al Parlamento, a tutti gli organismi che sono di mediazione tra i cittadini e le cittadine e il cosiddetto potere, perché punta alla gestione diretta dello Stato, della cosa pubblica, cioè la gestione diretta dei potentati economici, cioè le multinazionali, la borghesia transnazionale, che sta portando un attacco senza quartiere alle borghesie nazionali, è per la distruzione dello Stato-Nazione, per la distruzione dei momenti rappresentativi, per il governo diretto. In questo senso il TTIP è esemplare, dei potentati economici, e quindi fare resistenza rispetto al fatto che vengano smontate le chiamiamole così garanzie costituzionali, i momenti di rappresentanza, è un momento in effetti di resistenza al neoliberismo. Basta sapere come una si muove e che cosa significa questo, no? Per esempio, ci sarà il referendum, se ci sarà a ottobre, quello che è stato lanciato

E appunto, insomma, proprio prima di lasciarci, proprio per ricordare che appunto noi andiamo in vacanza, la lotta non va in vacanza, ma anzi ci sono vari appuntamenti importanti per quest'estate, e tra cui appunto uno si ricollega nell'appello molto a quello che abbiamo detto, insomma, nella prima parte della trasmissione. Infatti volevamo leggervelo, che è l'appello di Incontriamoci in Val di Susa, Notab, 16-17 luglio. La diseguaglianza cresce a dismisura per politiche economiche che aumentano le differenze sociali in questo paese. Dalle riforme della scuola al Jobs Act, la politica istituzionale non è capace e non vuole scientemente dare risposte soddisfacenti alle reali necessità della popolazione. Anzi, tutte le riforme ispirate dall'Europa dei confini e dei muri mirano ad impoverire e togliere diritti a chi ne ha già pochi e fornire privilegi e ricchezze a chi già è ricco. Lo sfruttamento dei territori con la progettazione di grandi o piccole opere inutili e costose è ormai prassi, perché tale azione rimane forse l'unica in grado di drenare soldi pubblici, gli unici fondi europei che vengono dispensati senza troppe prescrizioni, e favorire partiti e aziende connesse. L'Europa fortifica confini e frontiere per non permettere la libera circolazione dei migranti, ma è pronta ad abbatterle, bucando le montagne se necessario, per far circolare merci e flussi finanziari. A questo quadro è necessario aggiungere la deriva ben poco democratica e sempre più autoritaria del confronto politico con le istanze sollevate dai movimenti. La politica istituzionale, colpevole e incapace, delega a magistratura e forze dell'ordine il ruolo dello Stato e lascia gestire con gli strumenti del manganello e delle manette i conflitti in campo. Al bisogno di casa, sempre più uomini e donne rispondono con l'occupazione di alloggi sfitti, e le istituzioni sanno rispondere con sfratti, sgomberi e legislazione di emergenza, articolo 5, legge sugli sfratti a sorpresa. I territori in lotta, come quello della Val di Susa, vengono militarizzati, gli attivisti incarcerati e vessati di denunce e misure cautelari, tentando di depotenziare ogni spinta di resistenza. A tutto questo non possiamo che rispondere uniti, facendo tesoro delle pratiche e delle diligenze che tutti abbiamo in campo per difendere i nostri territori e la nostra dignità. Difendere i nostri territori oggi non è più da considerarsi come solo una pratica locale, ma assume forme concrete di autodifesa sociale del presente di un numero sempre maggiore di persone. Di fronte a chi nega anche i minimi diritti costituzionali ed oggi intende riscriverne i principi cardine, non possiamo non rispondere, perché ne va del futuro e della libertà di tutte e tutti. A partire da noi, ripartendo dalle nostre lotte, invitiamo i movimenti, le realtà territoriali di lotta ad un'assemblea nazionale che si terrà nella terra ribelle della Val di Susa il 16 e il 17 luglio 2016, con l'intento di costruire una mobilitazione nazionale comune. Chegue no final. C'è un altro appuntamento martedì 5 luglio, che è a Milano, ed è un appuntamento della consultoria autogestita. Allora, perché dare un appuntamento di Milano? Perché la consultoria autogestita ha fatto un bellissimo percorso quest'anno, che si chiamava Cose Nostre, cioè un ciclo di chiamiamolo di presa di coscienza, di conoscenza, di auto-organizzazione, tutto quello che significa prendere in carico la nostra vita, prendere in carico il nostro corpo, prendere in carico la nostra sessualità e organizzare anche le nostre lotte. Infatti vi leggiamo la lettera che hanno mandato a conclusione di questo ciclo le compagne della consultoria autogestita, che dice: care tutte, abbiamo pensato le aperture serali della consultoria come un momento per costruire consapevolezza di noi stesse, dei nostri desideri e dei nostri limiti, per rompere con le nostre certezze, guardare alle nostre contraddizioni, organizzare la nostra lotta. Il ciclo di Cose Nostre dedicate alla vagina è stato molto partecipato e davvero ricco di spunti, riflessioni e saperi condivisi fra tutte. Per festeggiare la fine di questo ciclo e per confrontarci su come continuare il percorso da settembre, organizziamo un aperitivo, mangiamo, beviamo e balliamo, e ci vediamo martedì 5 giugno dalle 19 in poi in consultoria autogestita in via dei Transiti 28 a Milano. Se volete sentire e quello che ha fatto che hanno fatto le compagne della consultoria, noi abbiamo fatto con loro dei collegamenti, li ha fatti anche Medea, il collettivo Medea, su Radio Blackout, e noi qui su Onda Rossa abbiamo fatto i collegamenti con loro e abbiamo discusso insieme di questo ciclo di auto-organizzazione e conoscenza. E quindi se volete ritrovarlo potete andare sul nostro blog e cliccando consultorio cercando consultorio autogestita o Cose Nostre vi verrà fuori tutto. And your perfect lover just looks like a perfect fool, so you go running off in search of a perfect stranger. All the loneliness seems to spring from your life like a fountain from a pool. Fountain of sorrow, fountain of life, you've known the hollow sound of your own steps in flight. E invece l'altro comunicato ci arriva appunto dalle compagne sarde, che appunto è Psichiatria se non la conosci la eviti. Brutta storia quella della psichiatria, una storia di violenza, di reclusione e di servizi spacciate come terapie, lobotomia, prodotti neurotossici, elettroshock, contenzione fisica, reclusione manicomiale. Una storia ormai conclusa? Assolutamente no. Se questo è giusto ricordare crimini, se è giusto ricordare i crimini del passato, è ancora più giusto ricordare che violenze e torture non sono affatto terminate con la chiusura dei manicomi. Un episodio esemplare è avvenuto a Cagliari e dimostra il contrario. Giuseppe Casu, venditore ambulante, nel giugno 2006 viene sottoposto a TSO su richiesta dell'amministrazione comunale di Quarto Sant'Elena. Non sarà mai visto, non era mai stato in cura da uno psichiatra. Il suo ricovero è motivato da un contenzioso tra lui e il comune per questioni di licenza di vendita e multe. Dopo 7 giorni di contenzione ininterrotta, legato al letto mani e piedi e di servizi impropriamente spacciate come cure, Giuseppe Casu muore. Per la sua uccisione, non certo accidentale, i familiari e un comitato di solidali chiedono immediatamente giustizia. La campagna Verità e Giustizia per Giuseppe Casu porta all'apertura di un'inchiesta della magistratura. Per tutta risposta, i resti anatomici della vittima spariscono misteriosamente dal reparto di anatomia patologica del medesimo ospedale. Lo scandalo è tale che il medico curante e i primari dei reparti coinvolti, Turri e Maccioni, vengono sospesi dal servizio e in psichiatria si avvia un timido tentativo di riforma per ridurre almeno le pratiche più violente e letali. Ma poi, poco a poco, tutto torna come prima. L'ex primario di psichiatria viene reintegrato in servizio. Gli innumerevoli processi che hanno visto imputati Turri, Maccioni, la dottoressa Cantone e altri medici del reparto si concludono alla fine con una plenaria assoluzione. Per la morte di Giuseppe Casu nessuno è colpevole. Paradossalmente, invece, alcuni attiviste e attivisti colpevoli di aver diffuso un volantino di protesta per l'integro dell'ex primario di psichiatria vengono denunciati dai legali dei dottori Turri per diffamazione. Il loro processo è in corso e sono gli unici a rischiare una condanna. Venerdì 1 luglio 2016, ora 19:30, Cagliari, via Ogliastra 43, ci sarà la proiezione del filmato di Francesca Zicchedu sulla vicenda di Giuseppe Casu. Incontriamoci per fare il punto su questa drammatica storia, a 10 anni dal suo inizio, sulle violenze psichiatriche ancora oggi sistematiche. Perché ricordiamoci sempre che per il neoliberismo la povertà è una colpa, e quindi la persecuzione della povertà è un attacco a tutto campo alle classi subalterne, ed è uno la psichiatria, i mezzi, il TSO, i servizi sociali che hanno ormai un atteggiamento poliziesco, sono tutte parte di questo progetto. appunto, quindi non è qualcosa che viene relegato lì in una situazione occasionale o nella vicenda sfortunata di qualcuno, ma è lo specchio di un atteggiamento che il neoliberismo ha verso le classi subalterne. Dicendo questo, allora noi vi ricordiamo che questa è l'ultima trasmissione prima diciamo dell'estate, che comunque noi continueremo per quanto possibile a mandare le registrazioni che delle trasmissioni più interessanti raggruppate per argomento, come facciamo, come abbiamo fatto anche gli altri anni, che per qualsiasi informazione, per qualsiasi voglia, per qualsiasi aggiornamento o comunque anche soltanto il desiderio di rileggere, di sentire le cose che abbiamo detto e che abbiamo fatto quest'anno, potete andare su coordinamenta.noblogs.org e ci potete scrivere a coordinamenta@autistiche.org. E ricordatevi che la radio non vive d'aria, e quindi appunto adesso vi volevo dare una serie di indicazioni per sovvenzionare la radio. Allora, sul sito della radio, su www.produzionidalbasso.com, trovate ovviamente quella che è la pagina crowdfunding per la sottoscrizione straordinaria. Invece, per quanto riguarda il metodo classico per sottoscrivere alla radio, il conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56, 00185 Roma. Un abbraccio grandissimo a tutte quelle e a tutti quelli che sono privati della loro libertà. Ciao!